Ed ora i momenti della giornata. Per esempio, in inglese... Day, morning, afternoon, evening, night. Lei sa già molte di queste parole in italiano. Per esempio, il giorno. Day. La mattina. Morning. La sera. Evening. La notte. Night. But what about afternoon, the afternoon or an afternoon? Si dice pomeriggio, il pomeriggio, un pomeriggio. Ascolti di nuovo e ripeta. Pomeriggio, il pomeriggio, un pomeriggio. E infine? How to combine times of the day or night with days of the week. Come combinare i momenti della giornata con i giorni della settimana. Per esempio, in inglese... Saturday evening. In italiano si dice domenica sera. So it's the day of the week plus the basic word for the time of day or night. Sì, esatto. Ed ecco altri esempi. Ascolti e ripeta l'italiano. Monday morning. Lunedì mattina. Tuesday afternoon. Martedì pomeriggio. Wednesday evening. Mercoledì sera. Sunday night. Domenica sera. Adesso un piccolo test. Ascolti l'inglese e dica l'italiano, per esempio. Tuesday morning. Martedì mattina. Capito? Bene, cominciamo. Tuesday morning. Martedì mattina. Friday afternoon. Venerdì pomeriggio. Thursday evening. Giovedì sera. Sunday afternoon. Domenica pomeriggio.